questa hyper biblioteca. Le porte sono in ghiaccio secco, nero, non si aprono, non ti aspettano. Those doors in black dried ice can melt tuos manos, can melt tuos oculos. Il primo incontro con Saturno, ecco i dischi di Pulviscolo. That disco fine freezing powder, son te quali to the poison in white noise. Tu potes lose your fimpans, sans arrivé to the last ring. Stay alert, stay luendi si, or tu anavis in a second will be minus 273 degree. Et superficie hostile takes a nova significazione. E tu de know, chi de sa the secret brings to la mort, sans neanche un mo. Puoi analizzare spectres or inviare dei robot me. C'è la mem shows, asking thing to the ice blocks. Take care, o le glacier materia, perché if someone cuts, pa-